Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Partiamo da un annuncio stasera, quello della realizzazione in Italia di una serie di impianti fotovoltaici in grid parity all'interno di siti produttivi. Questo termine, grid parity, indica la parità di costo tra l'energia prodotta da una fonte rinnovabile tipicamente e l'energia prelevata dalla rete. Come si intuisce, si tratta di una soglia cruciale che segna l'ingresso di una fonte di energia a pieno titolo nell'economia di mercato e quindi anche la possibilità di fare a meno di forme di incentivazione. Recentemente abbiamo parlato della situazione del fotovoltaico, del fatto che a livello globale c'è un forte problema di sovracapacità produttiva e del crollo drammatico che c'è stato nel nostro paese, quindi del mercato nazionale del fotovoltaico, questo a causa anche dell'approssimarsi della fine degli incentivi. Insomma, in questo quadro il settore, ne abbiamo parlato in altre circostanze, gioco forza, sta puntando tutto proprio su questa grid parity, che in effetti sembra abbastanza a portata di mano, come dimostra l'annuncio da cui siamo partiti. Di tutto questo parliamo con Gaetano Benedetto, che è direttore delle politiche ambientali del WWF ed è presidente di Officine Verdi SPA, che è quella che ha realizzato questi impianti ed è una joint venture tra WWF e Unicredit. Intanto benvenuto Gaetano Benedetto, buonasera. Buonasera agli ascoltatori. Allora, ci faccia qualche esempio di impianti fotovoltaici in grid parity da voi realizzati. Ma la nostra offerta è principalmente mirata alle piccole e medie aziende e in questa fase ci siamo concentrati sul distretto del mobile di Livenza con l'apertura presso l'Unione Industriale di Pordenone di un Energy Desk. La grid parity nasce da sostanzialmente tre elementi. Il primo elemento, la necessità di utilizzare una certa quantità di energia elettrica nello stesso momento in cui l'impianto fotovoltaico la produce, per cui nelle ore di giorno. La seconda opportunità nasce da un significativo abbattimento dei costi tecnologici delle pannellature fotovoltaiche e delle tecnologie connesse come gli inverter e via dicendo, e il terzo elemento da un mix di finanza che rende competitiva la realizzazione in proprio di un impianto di questo genere. Questo significa che io, nel momento in cui ho una certa superficie disponibile presso la mia azienda, riesco a produrre un quantitativo di energia durante le ore del giorno che è proporzionata al mio consumo e per cui nel momento in cui io autoproduco e consumo riesco a ammortare in un tempo pari a quello che avevo con il sostegno pubblico il costo dell'impianto che ho realizzato, per cui con queste nuove tecnologie abbiamo un ammortamento in 6-7 anni di un impianto fotovoltaico fatto su un capannone che assorbe come consumo tutta la produzione che l'impianto mi fornisce. Ecco, quindi uno dei fattori critici è, diciamo, questa caratteristica per cui uno deve consumare l'energia nello stesso istante in cui la produce. Perché questo è così importante? Perché cioè, una questione di tariffe. In cui c'era il sostegno pubblico è evidente che poi l'energia non utilizzata andava, come dire, obbligatoriamente messa in rete. E però lì c'era il guadagno che derivava appunto dall'incentivo. Nel momento in cui non ho più questo vantaggio, la convenienza nasce dal fatto che io ammortizzo la quota parte dell'impianto che ho messo sul mio capannone attraverso il diretto consumo. Pertanto devo avere sia la possibilità evidentemente di avere un impianto di dimensioni proporzionate al mio consumo, sia il consumo diretto, perché a quel punto ho sicuramente il vantaggio economico. Diciamo che forse si può vedere in questi termini, per esempio un piccolo capannone industriale paga l'energia molto nel momento in cui la compra dalla rete, ma se la dovesse vendere in rete, siccome non c'è l'incentivo, la venderebbe a poco. È per questo che è fondamentale autoconsumare, perché se uno dovesse vendere prenderebbe pochi soldi, invece come acquirente di energia paghiamo tanto e quindi se uno se l'autoconsuma il tempo di ammortamento diminuisce drasticamente. Mi sembra tra l'altro un principio associato a un mix evidentemente che Officine Verdi è in grado di fornire a un'azienda, che è il mix dell'autoproduzione legata al fotovoltaico, ma non solo, certo. Perché voglio far presente che ad esempio per quanto riguarda aziende agricole, il mix che proponiamo prevede anche biomassa o un microeolico, insomma a seconda delle situazioni, ma se questo mix di produzione energetica rinnovabile viene associato a un mix di efficienza energetica dovuta sia alla tipologia degli impianti utilizzati sia all'efficientizzazione degli immobili, per cui sulla dispersione termica, noi andiamo su una situazione davvero ottimale, per cui riduciamo l'esigenza energetica e la parte residuale di esigenza energetica che abbiamo l'approvvigioniamo attraverso un sistema di autoproduzione di rinnovabili. Tra l'altro mi sembra anche una cosa abbastanza sana, visto che questo mondo, diciamo, nasce con l'idea dell'autoconsumo e poi ce ne siamo un po' dimenticati negli ultimi anni, forse, no? Secondo me tutta la politica, e faccio un po' autocritica, anche le associazioni ambientaliste sono stati un po' deviati dall'obiettivo aumentiamo la quantità di produzione di energia rinnovabile. Dunque, finora quindi le condizioni di grid parity ci sono prevalentemente, almeno per quanto riguarda il fotovoltaico, in siti produttivi che appunto concentrano il loro consumo di energia intorno all'ora di pranzo, insomma, intorno al picco di produzione del fotovoltaico. A partire da questa condizione, in che direzione si allargherà, diciamo, il campo della grid parity? Ma io credo che la tecnologia che si sta sviluppando intorno agli accumulatori, sostanzialmente alle batterie di nuova generazione, potrà consentire anche uno spostamento della grid parity in tutto il settore famiglie, perché è evidente. Dove spesso è il contrario, invece, i consumi spesso sono proprio la sera e la mattina per chi è fuori a lavorare. Per cui c'è la necessità di accumulare l'energia che non viene utilizzata per poi restituirla agli utilizzi nelle ore in cui questo è necessario. E lei crede che questo obiettivo sia vicino? I costi degli accumulatori non sono proprio trascurabili. Non sono pochi, ma abbiamo uno sforzo della ricerca in questo settore che, esattamente come qualche anno fa rispetto alle pannellature fotovoltaiche, fa vedere che in prospettiva avremo sicuramente un abbattimento degli stessi. Grazie Gaetano Benedetto. Grazie a voi. Anche per stasera abbiamo concluso, appuntamento domani.